Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Ogni fuoco è unico, ovvero l'audacia dell'autenticità. La prima cosa che ho imparato quest'anno è stato fare un fuoco. No, non ne avevo mai fatto uno, sul serio. In intro, la pregevole infografica di una ragazza di città alle prese col caminetto, col proprio perfezionismo e con alcune verità esistenziali. Ho capito che per fare un fuoco serve una certa capacità di pianificazione, mescolata a una buona dose di improvvisazione. E non c'è niente come un caminetto spento quando hai freddo per farti cancellare le esitazioni del «sarà corretto fare così?», per evitare di esaltarti alla prima fiammata credendo di aver finito lì e per toglierti di torno la fretta, che accendere un fuoco è una danza e non sei tu che decidi il ritmo. Quello lo decide lui, il fuoco. A un fuoco servono le stesse cose che servono a te: cibo, aria e una scintilla. Il cibo del fuoco è il combustibile, che per bruciare ha bisogno di ossigeno. Ho imparato che il caminetto deve davvero tirare bene e che una porta aperta dal lato giusto può invitare la spinta d'aria perfetta per evitare di soffocare te e il fuoco. Anche per il fuoco, come per ogni cambiamento, di cui non a caso è il simbolo per eccellenza, si inizia dalle cose piccole, che bruciano facilmente, per cui una scintilla è sufficiente. Anche per il fuoco, come per ogni trasformazione, è necessario avere un piano, altrimenti le cose piccole bruciano senza appiccare i pezzi di legno più grandi e tocca ricominciare da capo. Anche per il fuoco, come per la vita, quando ti tocca ricominciare da capo, hai imparato qualcosa di nuovo e al prossimo tentativo andrà meglio, oppure a quello successivo. Ogni fuoco è unico. Questo l'ho capito grazie alla pazienza di Matt. Ciao Matt, che era lì a spiegarmi come fare. Perché alla fine un fuoco è una danza. Non puoi nutrirlo troppo se non soffoca e si spegne. Non puoi nutrirlo troppo poco, se no si esaurisce e di nuovo si spegne. Ma danzi con i pezzi di combustibile che hai a disposizione e vedi come va. Accendere un fuoco è un'attività creativa e ha a che fare con l'autenticità molto più di quanto avrei creduto. La prima cosa che ci serve per sentirci autentici è la consapevolezza di come siamo e come stiamo in questo preciso momento. Ce lo dicono le emozioni, soprattutto quelle scomode, che sono messaggeri della nostra verità interiore. La mia resistenza a riconoscere certe verità mi ha incastrata in situazioni che non mi hanno mai davvero aiutata, anzi, ad essere onesta, mi hanno danneggiata, alcune moltissimo, come un caminetto spento quando hai freddo. È capitato anche a te? Sono sicura di sì. Accogliamo la responsabilità di non essere stati consapevoli. Non c'erano energie sufficienti per guardare quella verità in tutta la sua completezza e il nostro focherello si spegneva subito. La consapevolezza da sola però non basta, altrimenti ci fermiamo lì, davanti al caminetto spento. Ci sentiamo davvero autentici quando iniziamo ad agire, a cercare combustibile, a trovare ossigeno, magari aprendo la porta giusta, a scoprire la scintilla, a mettere la consapevolezza in movimento, a fare il nostro unico e specialissimo fuoco. Per mettere la consapevolezza in azione, ecco le mie proposte yoga online per le prossime settimane. La bussola interiore yoga online per ritrovare la giusta direzione. È un percorso in 6 incontri già registrati, più uno individuale in diretta, quando avrai terminato di seguire le registrazioni che comunque sono a disposizione per un mese. Scrivimi per indicazioni e per capire se può fare per te. In In principio, le infinite possibilità di ciò che inizia è il percorso Yoga Online, tutto in diretta, il martedì sera di febbraio, di Yoga e Mitologia. Scopriremo insieme le storie dei grandi inizi, che sono stati definiti il mito dei miti, e come quelle storie stanno nel nostro corpo, sono già noi, solo che noi non lo sappiamo. Scoprirlo ci aiuta a starci un po' meno scomodi negli inizi, di qualunque cominciamento si tratti. C'è uno sconto per chi partecipa anche al percorso Yoga e Mitologia di aprile, che sarà dedicato alle stelle e all'intuizione, il cuore del cielo. Le iscrizioni sono aperte ancora per qualche giorno e i posti a disposizione sono limitati. Non puoi frequentare le dirette? Nessun problema. Saranno registrate e resteranno a tua disposizione per una settimana intera. Ecco i moduli. Non è Jurassic Park, inerzia e azione. Non è Quark, l'anima e le potenzialità. Non sono i Flintstones, la realizzazione. Non è il Big Bang, il dinamismo e la vibrazione della vita. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Mariangela Gualtieri, dalla raccolta Quando non morivo. Sarà il bello di cominciare con tutta l'energia rappresa, ancora intatta in gocce, tutta sospesa sopra il fare nostro. Un abbraccio grande. Laura.